la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, ecco tornato anche Oscar Giannino e riprende la programmazione dopo la pausa delle 3-4 settimane agostane imposte. Ci mentre nel frattempo, oltre a salutarvi, ovviamente il mondo non si è fermato in questo mese di agosto e quindi la crisi cinese da una parte, tra le cose che meno mi sono piaciute questa incredibile polemica, più che giustificata, su come il governo continua a comunicare mese dopo mese i dati delle comunicazioni obbligatorie sul mercato del lavoro, con il ministero che si deve correggere di quasi 400.000 unità, essendosi dimenticato il numero delle cessazioni per magnificare i risultati del Jobs Act, riscrive anche le serie storiche del 2014 per rimettere i conti a posto, ma parleremo anche di questa di quest'altra cosa. Naturalmente l'aggravarsi della crisi dell'immigrazione con i balbettii dell'Europa, tante cose in questo mese di agosto, ma io vi devo innanzitutto, prima di passare al tema del giorno e di ricordarvi per intervenire il numero del telefono che conoscete, 800 24 0024, per gli sms il 349 238 66 66, vi devo spiegare perché anche a questa ripresa c'è This Is The End e quindi Jim Morrison e Doors, perché se ricordate mesi fa, proprio rispondendo a voi che scrivevate, ve lo ricordo anche l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it, chiedendo quando è che la cambi sta portasfiga di di sigla, e io vi dissi: facciamo un patto, quando avremo due trimestri di seguito di crescita tendenziale più 0,3, cioè insomma, una crescita annua di un po' superiore almeno all'1%, ma accontentiamoci di due trimestri, la cambio. E abbiamo tutti aspettato il dato che è poi uscito in questo mese, e sapete che è stato più 0,2, non più 0,3, e quindi noi abbiamo in realtà a fine giugno gli stessi occupati di fine giugno 2014, né uno di più né uno di meno praticamente, malgrado il Jobs Act. Abbiamo 85.000 disoccupati in più e non in meno, e abbiamo, questo sì, 113.000 inattivi in meno, quindi gente che ha ripreso a cercare lavoro, però l'occupazione non è salita. Qui ci sono i dati veri a netto di tutte le polemiche su come ogni mese il ministero fa casino comunicando i dati delle comunicazioni obbligatorie e senza aspettare i dati veri sull'occupazione dell'Istat. Detto tutto questo, per questo io ancora su questo trimestre tengo i dorsi. Dopodiché, se, e auguriamocelo davvero, perché non possiamo tifare contro l'Italia, le cose vanno meglio nel terzo trimestre, si cambia e facciamo grande, a quel punto, una grande consultazione su una sigla più ottimista, per così dire. Allora, veniamo invece all'argomento del giorno e vi faccio subito la domanda. È uscito, grazie al Corriere della Sera, la settimana scorsa, prima venerdì e poi sabato, una notizia che per l'impatto sulla finanza pubblica del nostro paese è una notizia molto rilevante. Perché che cosa succede? Succede che la Corte dei Conti inizia ad appurare che le regioni nel nostro paese hanno utilizzato i soldi trasferiti loro dal governo per saldare i fornitori, cioè il debito commerciale ai fornitori privati, lo hanno utilizzato in moltissimi casi, vedremo regione per regione, invece per fare altra spesa corrente. E quindi adesso si apre il problema di un buco nella finanza pubblica delle regioni di pochissimo inferiore a 20 miliardi di euro. Ripeto, per aver utilizzato per altra spesa corrente i trasferimenti loro attribuiti e vincolati per pagare il debito ai fornitori, che così risultano due volte buggerati, per così dire, non solo per i ritardi di incassare i soldi dalle regioni, ma perché le regioni hanno fatto altrimenti. Questi 20 miliardi sono distribuiti, ci sono solo due regioni che non hanno un buco aggiuntivo e che quindi non hanno utilizzato questa finalità disinvolta nell'utilizzo delle risorse che erano vincolate, e le regioni che non hanno debito aggiuntivo sono la Basilicata, il presidente Gianni Pittella, la Lombardia di Roberto Maroni, tutte le altre regioni, chi più chi meno, hanno buchi aggiuntivi fino a 19 miliardi rotti, quasi 20, e ci sono alcune regioni che ne hanno il più di questi 20 miliardi, nel senso che in testa a tutti per debito aggiuntivo il Lazio con 8 miliardi e 700 milioni, il mio ohimè Piemonte con 3 miliardi e 64 milioni, il Veneto 1 miliardo e 587 milioni, l'Emilia Romagna con 946 milioni e via via a scalare. Di fronte a questo, a questi 20 miliardi di buco aggiuntivo, veniamo informati sabato dal Corriere che è subito pronto una leggina per sanare il debito delle regioni, non per sanzionarle perché hanno utilizzato i soldi che servivano a pagare i debiti, ma per rallentare loro i vincoli della finanza pubblica, perché appunto le regioni dicono: signori miei, ma che volete da noi? Abbiamo questa legge, la legge 243 del 2012, che ci obbliga a un saldo non negativo, quindi o essere in attivo o avere il pareggio di bilancio, sia nel bilancio preventivo che in quello consuntivo, sia nel rapporto alle entrate che alle spese finali, che sulle spese correnti, sia sui conti della sanità. Troppi vincoli, allentateci questi vincoli, perché altrimenti noi, per rispettare questi vincoli, se ci danno dei soldi vincolati, li utilizziamo per altro. E ci informa il Corriere della Sera, è pronta la leggina per sanare 20 miliardi di buco. La mia opinione è opposta, ma può essere che io mi sbagli, per questo vi dico: intervenite. Siete favorevoli a una leggina per salvare le regioni che utilizzano i soldi per pagare i debiti per fare altra spesa corrente? Hanno ragione secondo voi le regioni a dire che sono troppo vincolate al pareggio di bilancio e quindi possono utilizzare le somme anche al di là dei vincoli per cui vengono loro attribuite, essendoci un debito commerciale ai privati da pagare? Ripeto, questo è il motivo per cui erano state date loro queste cifre con tanto di vanto da parte del governo di avere risolto il problema. Il problema è che non è risolto, perché sappiamo poi dalla Banca d'Italia che c'erano ancora all'inizio dell'anno 56 miliardi del vecchio debito, nel frattempo sono saliti ad altri, sono 70 miliardi di debito ancora da saldare ai creditori privati. Ma detto tutto questo, siete favorevoli a questa leggina? Hanno ragione le regioni a fare così? Nel mio ordinamento ideale, invece, i vincoli dovrebbero restare, e anzi le regioni che utilizzano soldi vincolati per fare altro, dovrebbero avere delle sanzioni dure. Cioè, dovrebbero avere delle sanzioni dure, perché capite che se il Lazio per 8 miliardi e 7 ha fatto altro, insomma, 8 miliardi mi sembra una cifra per cui la sanzione dovrebbe essere la caduta della giunta. Però io non voglio fare il populista, quindi sono pronto ad ascoltare voi, e abbiamo invitato apposta una persona esperta di rapporti molto intricati tra finanza pubblica centrale e finanza pubblica locale, il professor Luca Antonini, che insegna diritto costituzionale, è ordinario di diritto costituzionale all'Università di Padova e che da anni presiede anche la commissione tecnica sul federalismo fiscale, che come sapete dopo tanti anni di parole in realtà è stato messo in un angolo e via via fatto a pezzi, perché si torna al centralismo in questi ultimi anni con i governi tecnici non eletti. Allora, intanto saluto il professor Antonini e lo ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei, Oscar. Eccomi. Ecco, in attesa delle telefonate dei nostri ascoltatori, io chiedo a lei: hanno ragione i presidenti di regione che dicono eravamo costretti a utilizzare altrimenti questi soldi, e ha ragione secondo lei la leggina che vuole far cadere tutti i vincoli, oppure il più dei vincoli, alla finanza pubblica regionale, con tutta la fatica che è stata fatta per introdurla quei vincoli, visto il debito sanitario che si era accumulato in molte regioni? E hanno ragione loro, oppure secondo lei no? Ma guardi, Oscar, la questione è piuttosto complicata in questo caso, e lo si capisce leggendo la sentenza della Corte Costituzionale. Cioè, qui c'era una legge, quella dello Stato sui pagamenti pregressi, decreto legge del 2013, che era oggettivamente ambiguo. La questione riguarda questo: si può interpretare questo prestito che lo Stato fa alle regioni come un mutuo vero e proprio, o è una semplice anticipazione di cassa? Per le nostre regole contabili, se è un mutuo, aumenta la capacità di spesa delle regioni. Se è un'anticipazione contabile, no. E infatti le regioni che hanno più debito accumulato, per così dire, per avere, hanno interpretato la somma come un trasferimento che mutuo, che accresceva quindi la capacità di spesa. Che capire la capacità di spesa. Però la cosa interessante è che qui è lo Stato che ha sbagliato, Tant'è che il procuratore regionale della Corte dei Conti della sua regione, cioè del Piemonte, lo interpretava come mutuo. Mentre la Corte dei Conti ha sollevato la questione alla Corte Costituzionale dicendo no, secondo me quella è un'anticipazione di cassa. Quindi diciamo, quindi, né nella magistratura contabile né nella magistratura costituzionale c'è una univocità di opinioni su come si interpretava il decreto che dava i soldi alle regioni. Bravo, e soprattutto la cosa che emergeva è che la Corte Costituzionale stessa dice questa norma è estremamente ambigua, però si è trovata tra l'incudine e il martello. Perché se la interpretava come mutuo, doveva dichiarare incostituzionale tutto il decreto sui pagamenti pregressi, perché l'articolo 119 vieta l'indebitamento per la spesa corrente, c'è la regola aurea che può indebitarti solo per la spesa di investimento. Ora, io nel pagamenti ai fornitori ho anche la spesa corrente. Certo. Quindi la Corte Costituzionale era un'alternativa nel dichiarare incostituzionale tutto quel decreto, con un danno enorme per buco spaventoso, per anche poi i pagamenti che erano stati effettuati, oppure dire no all'anticipazione di cassa. Però lo deve dire curandosi il naso, perché la Corte Costituzionale stessa dice non si è mai vista un'anticipazione di cassa a 30 anni. Il carattere tipico dell'anticipazione di cassa è la brevità, un anno. Qui è l'anticipazione di cassa di 30 anni. Però qualificandola come anticipazione di cassa non determina l'incremento della capacità di spesa delle regioni, quindi si crea il buco. Poi dipende da come le regioni hanno utilizzato. Alcune regioni le hanno utilizzate effettivamente per pagare i fornitori, il Veneto ha fatto così, sì. Il Lazio non lo so francamente. Però il problema era che non c'era quell'aumento di capacità di spesa e è quello che ha creato il buco. E la Corte Costituzionale si è trovata fra l'incudine e il martello. Una norma estremamente ambigua, capisce? Cioè, quindi è qui che è nato il problema. Ma che cosa bisogna, bisogna come così, prima, da questa considerazione, cioè la diversità di interpretazione di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti rispetto poi a quello che dice la Corte Costituzionale, cosa bisogna desumerne come primo dato? Che al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella stesura di un decreto molto importante come era quello per attribuire i fondi per pagare il debito commerciale da sanare, il governo aveva la testa su quello, se ne vantava, quindi non era un provvedimento per così dire, come si vede anche dalla montata delle risorse. Eppure, malgrado tutto questo, al MEF non sapessero questa fondamentale distinzione che in realtà è uno dei pilastri su cui abbiamo tentato di rimettere in equilibrio la finanza regionale, distinguendo appunto questo tipo di trasferimento. Guardi, Oscar, io non so come sono andate le cose in questa vicenda, c'è anche poi il Parlamento che interviene, io tanti dei miei decreti che erano scritti in un certo modo mi hanno stravolti poi nella fase parlamentare, devo dire, non sarebbe la prima volta che succede, però le dico anche che tante volte anche noi la regola sul pareggio di bilancio non è che l'abbiamo introdotta, soprattutto con la legge di attuazione, in modo corretto. Tante volte l'Europa ci dice vai a messa la domenica, noi traduciamo obbligo di andare a messa tutti i giorni. No, certo. Quindi come l'abbiamo tradotta noi, la legge soprattutto di attuazione, la legge rinforzata di attuazione, è una legge che sta creando dei danni enormi, soprattutto rischia per i meccanismi che ha di bloccare la spesa di investimento. Io credo che su questo si debba intervenire. La seconda cosa è che direi che bisogna distinguere fra regione e regione. Un conto è una regione che, tra l'altro le regioni in questo periodo, Oscar, le dico, 80 miliardi di taglio dal 2000 oggi a oggi. Quindi vedete, la spesa degli enti territoriali è stata quasi dimezzata. Quella dello Stato, e lo dico a lei che capisce queste cose, non l'ha toccata nessuno. E noi oggi i grandi sacchi di rendite, di sprechi, secondo me ci abbiamo nella spesa centrale, dove i lavori di Cottarelli sulla spesa centrale, se non sbaglio, non sono stati nemmeno pubblicati, mentre online sono stati messi tutti i possibili immaginabili lavori sulle spese e gli sprechi delle regioni. Quelli dello Stato, ricordiamolo, che la giustificazione è data per il fatto che dei 25 gruppi di lavoro di Cottarelli solo alcuni dei report, sia pur la maggioranza, sono stati pubblicati e altri no, derivavano dal fatto che qualcuno insindacabilmente ha deciso che quelli che non hanno pubblicato erano quelli meno ricchi di proposte e di analisi, per così dire. Naturalmente beato chi ci crede, ecco, da questo punto di vista. giustificato che guarda caso lo Stato centrale si è autotutelato nella pubblicazione dei report dei gruppi di lavoro di Cottarelli, per così dire. Quindi lei dice le regioni non hanno tutte torto. Secondo, però, noi qua non siamo in grado ancora adesso di distinguerlo, perché qui in realtà in questi anni il discorso del costo standard, ci torneremo dopo l'interruzione tra un minuto adesso dedicato al traffico, ma ce lo rispiegherà. Sui costi standard abbiamo fatto finta di adottarli, per così dire, quindi è stato un po' buttato al macero tutto il discorso degli anni precedenti. Qui la vera distinzione non c'è, il rischio è solo che passi un allentamento che ancora una volta premi sullo stesso piano chi in realtà ha utilizzato queste somme in buona parte per pagare i fornitori e chi invece ha fatto veramente altro. E questo io lo trovo molto molto molto discutibile. Abbiamo chiacchierato per anni sulla distinzione della qualità della spesa a fronte dell'efficienza e poi in realtà scopriamo ogni volta di fare un passo indietro invece che un passo avanti, o comunque di non compiere un passo avanti. Intanto strada, e poi torniamo col professor Antonini a parlare di questa storia del buco di 20 miliardi delle regioni. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta alle 16:48 primi. Grazie a tutti quelli che stanno mandando gli sms e cui dicono bentornato anche a me ai microfoni, come tutti quelli che oggi ricominciano la trasmissione qua a Radio 24. Grazie anche ad alcuni ascoltatori che si ricordano, io di solito parlo poco di tifo, che sono torinista e devo dire la verità, senza offendere nessun altro tifoso, eccetto queste due prime domeniche, ce le ricorderemo a lungo e speriamo che continuino tra Toro e... i risultati dell'altra squadra torinese che non cito, ma detto tutto questo stiamo parlando di questo buco che è un buco contabile, non è un vero, è un buco contabile per i criteri di appostamento delle spese nel bilancio delle regioni, quasi 19.8 miliardi dovuto a questa interpretazione del decreto che diceva vi diamo questi soldi per pagare debiti commerciali. Naturalmente però non era molto chiaro il decreto se questi era a 30 anni, perché questo era il termine temporale, era un mutuo oppure era un'anticipazione di cassa. Peccato che il criterio contabile diverga strutturalmente, perché se un mutuo, questo gonfia la capacità di spesa e quindi alza i limiti per l'equilibrio di bilancio delle regioni. Se era un'anticipazione di cassa, come invece dice la Corte Costituzionale e intendeva il MEF a quanto pare, ecco che allora qua le regioni si trovano con 19.8 miliardi di buco e non si sa come fare, perché a questo punto dovrebbero ulteriormente diminuire la loro capacità di spesa e di parecchio. Pensate all'effetto sul Lazio, che in rientro coatto di sanità beccarsi altri 8 miliardi e 700 milioni di buco aggiuntivo. Io rimango però con i miei dubbi sul fatto che lo strumento della sanatoria, tutti uguali e senza distinguere tra capacità ed efficienza della spesa, sia il più efficace rimedio. Perché Antonini, su questa storia della distinzione della qualità dei costi standard, questi ultimi 2-3 anni sono stati praticamente, non dico tempo perso, ma secondo me hanno peggiorato tutto? Ma guarda, innanzitutto sono d'accordo completamente con lei, cioè nel rimediare adesso sta famosa leggina bisognerebbe distinguere nettamente tra chi poi le risorse le ha usate per effettivamente pagare i fornitori e chi le ha usate per altro. Questo posta la giustificazione che c'è, perché la norma è ambigua, però questo non toglie che si debba, secondo me, necessariamente fare la verifica che dice lei, quindi non todos caballeros. La stessa cosa per i costi standard, la cosa più sconvolgente è che questi non sono stati usati mai, soprattutto, per ripartire i tagli. E dicevo, in questi esatto. Dal 2008 a oggi abbiamo avuto 80 miliardi di taglio sulla spesa degli enti territoriali. Ma sono stati precisiamo tutti che lineari. Sono diminuzioni rispetto alla spesa tendenziale, non sono 80 miliardi sullo stock storico della spesa 8 anni fa, perché sennò ovviamente saremmo in ginocchio. Però ecco. No, però ecco, se li mettiamo insieme, perché gran parte sono stati proprio tanti trasferimenti. Sì, adesso sì, sì. Possiamo distinguere però credo che almeno 40 miliardi di questi siano stati reali tagli e trasferimenti, reali tagli e trasferimenti. Cioè il fondo di solidarietà dei comuni era 16 miliardi, oggi è 4 miliardi. È 4 miliardi, sì, è così. quindi cioè, i tagli sono stati carne viva, e non questo sono spiega perché poi c'è stata l'esplosione del fisco locale per tentare di recuperare lo Stato. Lo Stato si fa bello a tagliare le risorse e poi dice a tassare ci pensate voi, ovviamente. Quindi questo, guardi, che l'ha detto appunto una che non è mai stata tenera con gli enti locali, che è la Corte dei Conti, nelle ultime due relazioni che ha fatto. In una dice, questi enti sono stati tagliati in modo sproporzionato all'entità delle loro risorse, parole testuali, e questo taglio pesante nei loro confronti è stato invece accompagnato da un taglio irrisorio di altri comparti. Secondo, dice una cosa che fa accapponare la pelle per uno che ci crede nella democrazia locale, che è in mente Tocqueville, dice le spese, gli aumenti di imposte locali sono stati determinati non da scelte di autonomia, esatto, ma imposte dal governo centrale, esatto, che appunto ha tagliato, questi non c'erano più soldi per i servizi, quindi si riducono le imposte centrali, si fa il bonus degli 80 euro eccetera eccetera, ma lo si fa pagare con i tagli agli enti locali, e questo è un cortocircuito della democrazia. Possiamo dire però che il fronte, diciamo così, per esempio una conferenza Stato-Regione, il fronte delle regioni meno efficienti è stato un freno potente che ha dato una mano alle burocrazie del MEF centrali per questo tipo di esito paradossale del federalismo fiscale che oramai purtroppo sì, questa è la logica scellerata che spesso ha dominato, perché c'è stata un'alleanza quasi di comparto che con poche eccezioni che difendeva, diciamo, appunto l'utilizzo, io penso, lo so, Zaia, abbiamo fatto una bandiera dei costi standard, però è stata una voce appunto abbastanza isolata dentro il contesto della conferenza, perché tutte le altre non avevano interesse a applicarle, e questo ha determinato quel cortocircuito, quel metodo che lei ha messo in evidenza. E né mi pare che la riforma della Costituzione in atto per le parti che riguarda i rapporti tra Stato e autonomia interviene per tentare di rimediare a questo errore di questi ultimi tre anni, o no? Qual è il suo giudizio? Ma la riforma opera una fortissima ricentralizzazione. Esatto. C'è una causa di supremazia che noi nella dottrina costituzionalistica ha definito clausola vampiro, perché può praticamente lo Stato riaccentrare tutto. E qui, anche qui, ti ritornerebbe il discorso perverso che facevamo prima. Se abbiamo un modello in alcune regioni, so il Veneto, l'Emilia Romagna, che funziona, e in 10 regioni che non funziona, se lo Stato riaccentra tutto, secondo me non risolverà le 10 che non funzionano, perché lì le risolvi con commissariamenti veri, non con quelli finti che mette il Presidente della Regione, come fanno oggi, con commissariamenti veri, di gente esterna che non guarda in faccia a nessuno. Ma allo stesso tempo sfasci i modelli virtuosi, cioè la sanità di Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia è un'eccellenza mondiale, qui si rischia di sfasciarla con la ricentralizzazione. E attenzione, cari ascoltatori, anche i metodi per i tagli della sanità aggiuntivi l'anno prossimo non sono fatti distinguendo, e quindi come ovvio chi ha livelli migliori di qualità rispetto all'ammontare della spesa è più penalizzato di quelli più inefficienti. Questo riguarda la modalità con cui si fanno i tagli anno per anno, non solo l'attribuzione dei trasferimenti ordinari non toccati dai tagli, o no, Antonini, che dici? Assolutamente così, anzi il criterio che usano per il taglio è tanto più è alto il PIL, esatto, tanto più sei tagliato, tanto più alto il PIL regionale, tanto più sei tagliato. Quindi se una regione è efficiente ma che ha un PIL alto, io ti taglio di più rispetto alla regione inefficiente, che ha sprechi inenarrabili dentro la sanità ma ha un PIL più basso. Questo è un criterio demenziale, che però è scritto dentro le leggi, che è appunto l'ultima legge che prevede il taglio, il decreto enti locali, no? Allora, cari ascoltatori, io ringrazio il professor Antonini, vedremo qual è l'esito. Questa è una legge rafforzata per passare modificando i 12 criteri di pareggio del bilancio, diciamo così, o di saldo non negativo che gravano sulle regioni, quindi bisognerà vedere, perché ci vuole un voto rafforzato e che deve essere perfezionato nei due rami del Parlamento prima della legge di stabilità addirittura, ma vedrete che qualcosa si dovranno inventare, perché voi capite che 20 miliardi di buco però ripeto, la mia opinione è che è molto sbagliato, perché di questi 20 miliardi la metà sono una furberia, secondo me, a occhio e croce, rispetto a chi li ha utilizzati poi per pagare i fornitori. Vi do da subito appuntamento. Domani parleremo di un altro problema emerso sui comuni e mercoledì ve lo dico da subito, parliamo di questo commissariamento o non commissariamento deliberato dal governo a Roma, facendo del prefetto di Roma una specie di Papa Re pur di non sciogliere la giunta, di non andare a votare, perché sono molto curioso di vedere voi ascoltatori di Roma come la pensate. Per me è fuori dall'ordinamento amministrativo, ma ne parleremo mercoledì, quindi iniziate a pensarci. Intanto grazie di aver ascoltato oggi, grazie al professor Antonini, continuate con Radio 24 e appuntamento con me. A domani, buon fine di agosto!